I've been. Basta niente per creare un prepotente. Tanti soldi e successo fra la gente. E la paura di non possedere più niente. Questo basta a infettare la sua mente. questo basta infettare la sua mente. Ciò che guardo è una cosa indefinita. Sto guardando il miracolo della vita.